Giuseppe, intanto come sta? Bene? Oggi bene? Ma sai, siamo con l'elmetto. Immagino. Siamo con l'elmetto e sott'acqua. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Eccoci qui ragazzi, 17.09, Carlo Genta, ciao. E ciao a tutti. Pierluigi Pardo, ciao. Diga, come andiamo? Molto bene, avevamo preparato un ingresso strepitoso, studiato a lungo nell'ultimo quarto d'ora, è saltato tutto, ma fa niente, lo facciamo lo stesso. Lo facciamo lo stesso, perché c'eravamo messi lì a ragionarlo io e Edoardo Lavezzari, che è all'ultima oggi, oggi ci saluta. Sì, e passa miglior vita, sì. Miglior vita lavorativa, miglior vita lavorativa. Entra nel paradiso degli ex, autori e assistenti di tutti i convocati. Allora, andiamo con l'inizio che dovevamo fare. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Lukaku da solo, coast to coast, Lukaku! 3-1! 3-1 per l'Inter, in contropiede, ha superato Cragno in velocità. Cambiare partito è molto facile. Quindi il piano B, che si è scoperto, il piano B che tanto si è parlato in questi giorni era la difesa 4. Sì, la mia era una battuta sul piano B, chiaramente. E il piano B consiste nel cercare con le sostituzioni, cioè il piano B per ogni allenatore sono le sostituzioni. Allora ragazzi, è la domenica del piano B, come quello che ha salvato l'Inter di Conte a Cagliari, 20 dalla fine, difesa 4, Sanchez trequartista, da 0-1 a 3-1, il piano B che ha salvato Gattuso, che nell'intervallo era sotto con la Samp, ha tolto Fabian Ruiz, Politano, ha messo Lozano e Petagna, che gli hanno ribaltato la partita e l'ha vinta. Il piano B di Gasperini, che ha fatto fuori Gomez, ha messo Malinowski ed è tornato a vincere in campionato dal 31 ottobre. Insomma, oggi, carissimo Carlo, carissimo Pierre, è la domenica del piano B. Sì, è la domenica del piano B. Vediamo, scusa Pier, ma vediamo anche cosa consiste il piano B, perché Conte ha provato la difesa a 4, poi parla di sostituzioni. In effetti il Napoli l'ha vinta pescando dalla panchina, così come l'Atalanta. Poi vediamo il piano B della Juventus tra meno di un'ora e vedremo il piano B del Milan ancora senza Ibra e Kier. Ma il piano B è stato il grande tema della settimana, Pier? Sì, e non solo della settimana, secondo me di tutto questo periodo, nel senso che adesso non è che voglio fare l'autocelebrazione di questa trasmissione, ma noi parliamo delle alternative dell'Inter da 2-3 mesi e ne parliamo in maniera assolutamente dialettica e rispettosa, nel senso che poi alla fine gli allenatori sono artefici del proprio destino, conoscono i meccanismi della propria squadra, per carità. Quindi però che l'Inter, lo diciamo mi ricordo Crosetti, l'ho detto io, l'ho detto Carlo, l'abbiamo detto tutti, cioè che l'Inter in determinate situazioni, in questa prima parte della stagione, abbia mostrato una certa indisponibilità al cambiamento, questo è indiscutibile. Io, il primo flash che mi viene in mente è Lazio-Inter, perché feci proprio la domanda ad Antonio Conte, ed era una partita in cui a un certo punto l'Inter era 11 contro 10, aveva una situazione di vantaggio da poter sfruttare, E tu dici, usa il piano B. E lui rispose, in maniera molto dialettica, articolata, dicendo che facendo capire che secondo lui erano più i rischi delle opportunità nel cambiare troppo la testa dei giocatori. Sì, ma anche oggi ha fatto un lungo giro per dire che poi quando metti il piano B perdi gli equilibri, perdi tutto, però poi vinci le partite ogni tanto, capita, no? Sì, sì, ma infatti, ma anche perché secondo me, insomma, la qualità dell'allenatore, lo dico assolutamente senza ironia, io sono convinto che Conte sia un ottimo allenatore, non è che devo dirlo io, ma è una storia che parla, no? Sia pure un allenatore giovane, ma comunque già con dei successi, quindi da uno come lui io mi aspetto un valore aggiunto, e da una rosa come quella dell'Inter mi sembra che nella rosa dell'Inter c'è un potenziale per poter avere delle alternative. Oggi in qualche modo si è visto, poi ovviamente nel calcio c'entrano anche gli episodi, perché il Cagliari ha avuto delle possibilità per chiuderla prima, però insomma oggi si è visto un Conte dialettico, cioè, oggi si è visto un allenatore che ha messo in discussione alcune delle sue certezze e dei suoi schemi, e ha vinto anche probabilmente nei 57 minuti così di Eriksen, che hanno dimostrato quello che spesso abbiamo detto, perché almeno noi mi ha scritto un amico dopo il primo quarto d'ora di Cagliari-Inter, non nominerò chi è, ha detto: ha fatto più Eriksen in questo quarto d'ora che Vidal dall'inizio di stagione. sì no, vabbè, questo è un po' tanto. Carlo? Poi ragazzi, ragazzi, adesso non dimentichiamo che di tutte quelle lì davanti Conte, suo malgrado, sarà anche quello che avrà le maggiori possibilità e il maggiore tempo per provare, cercare il piano B, C, D, E, quello che volete, perché sarà anche l'unico lì davanti a non avere le coppe, quindi avrà più tempo anche suo malgrado per lavorare. E non è un dettaglio, non è un dettaglio il fatto di essere l'unica di quelle che corrono lì davanti a non avere suo malgrado, le coppe. Anzi, da gennaio e per almeno due mesi e mezzo sarà un grande vantaggio. Allora, vi fermo qui per il momento. C'è il traffico 800 24 00 24. Questo è il numero verde per chiamare, prenotarsi, intervenire in diretta fino alle 19. Lo state già facendo in tanti. Anzi, messaggio per la regia. Diamo già dal prossimo blocco spazio anche alle telefonate. 349 238 6666, SMS e WhatsApp, anche vocali. C'è anche un piano B, ragazzi, di Pirlo, Se avete pazienza qualche minuto ve lo dico. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto sta parlando Gasperini a Sky, Gasperini che oggi ha lasciato 90 minuti più recupero fuori il Papu Gomez, dentro Malinowski che gli ha restituito anche un gol su punizione, bello, segnato per chiudere, di fatto sigillare la partita, poi chiusa per 3-0, sentiamo Gasp a Sky. Di Champions, dove forse era l'unico giocatore che aveva giocato tutte 15 le partite. Sta parlando di Gomez. Di più, 12 o 13. C'era la necessità, anche perché ultimamente con questa formula, insomma, siamo riusciti a essere molto più compatti e prendere sicuramente pochissimi gol. E poi oggi siamo stati anche produttivi nel gioco. Domanda secca, sta facendo fuori il Papu? Pier Carlo? Forse. Posso dirti una cosa? Un allenatore che dice: con questa formula riusciamo a essere più equilibrati e a prendere meno gol, e oggi poi siamo anche stati costruttivi a farli. Ragazzi, in questo momento sì, però poi nel 90% dei casi le situazioni si ricompongono. Ieri sera nel prepartita vedevo Peruzzi tutto sorridente e mi ricordo le cose che dicevamo un mese fa su Peruzzi. Io non è questione di essere democristiani, è questione che poi il 90% delle volte i problemi si ricompongono tra persone intelligenti. Quindi in questo momento sì, oggi sicuramente ha dato una lezione, la squadra gli ha dato una dimostrazione di forza e Malinowski gli ha dato una dimostrazione di forza e ha ricavato sicuramente degli elementi. Quindi adesso magari per i prossimi giorni ci sarà ancora un po' di elettricità, un po' di adrenalina, poi magari si metteranno d'accordo, troveranno un equilibrio e tutto tornerà come prima, perché questo succede, ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi. Tant'è vero che Peruzzi è lì, e un mese fa sembrava che fosse la fine del mondo. Anche Gomez era lì oggi con una faccia un po' così. L'unica cosa in tempi recenti, l'unica situazione veramente che non si è ricomposta e mi è sembrata è stata Icardi, perché ma lì evidentemente c'erano dei problemi di rapporti interni talmente profondi, e forse c'era anche una scelta poi di fondo tecnica da parte dell'Inter di fare un'altra situazione, ma poi in quasi tutte le altre situazioni quante volte vediamo le cose si ricompongono poi. Ma certo, ma è così, però, Carlo, perché... però vediamo. Però certo. ne parlavamo venerdì, c'eravamo tutti e tre, no, venerdì abbiamo parlato a lungo di Atalanta anche con Cristiano Gatti, che è uno che conosce bene quella realtà e quelle situazioni. Insomma, io non so se si ricomporrà tra Gasperini, il Papu, i dissidenti, eccetera. L'importante è che il club abbia le idee chiare su come proseguire la stagione e progettare il futuro, perché io continuo a pensare che questa Atalanta non esista più senza Gasperini. Probabilmente potrebbe esistere senza quel meraviglioso giocatore che è il Papu, senza quel meraviglioso giocatore che è Ilicic, ma credo che questa Atalanta non esisterebbe più senza Gasperini lì. Sono d'accordo che sì. Fra le due colonne, perché stiamo parlando di due colonne della crescita di questo club, quella forse più decisiva e più insostituibile è Gasperini. Però un Gasperini, attenzione, motivato, felice e sereno, perché poi queste cose qui da fuori non è che si riescano a capire al 100%, per cui se è veramente un problema di un litigio, di un'incomprensione, di un calo un po' così, di un po' di freddezza, che ci può stare nella vita? Ci sta con le mogli, ci sta con le fidanzate. Sì, o forse è semplicemente una questione tattica. Gasperini, in un certo tattica, senso, la sta rivendicando. Fatemi salutare Sandro Sabatini. Ciao Sandro. Ciao, buona domenica a tutti. A proposito di cose da rivendicare, Napoli è terzo in classifica in questo momento, 23 punti, uno in meno dell'Inter, con un punto di penalizzazione. Esatto, sì. Adesso in 4 giorni ci sono Inter-Napoli e Lazio-Napoli. Io ve la butto lì. Siamo partiti dal piano B di oggi, no? Petagna e Lozano che gli hanno ribaltato le partite, grande segnale di flessibilità di Gattuso. In 4 giorni il Napoli va a fare quel crash test ad alto livello che si è rifiutato di fare non andando a Torino, adesso senza riaprire la pagina di Torino, però manca quella prova lì in campionato. Adesso Inter-Napoli e Lazio-Napoli in 4 giorni, fra 4 giorni avremo le idee più chiare. Sandro? Io premetto che secondo me il Napoli ha ancora rimpianto, rammarico, rimorso di come si è andata a roba da pigliare testate sul muro. Per il momento a finire la storia di Juventus-Napoli e di quella di inizio campionato, la seconda o terza giornata nemmeno ricordo. Io credo che sia un crash test non definitivo, però non definitivo, perché anche in caso negativo io il Napoli lo avevo impostato benissimo. Te lo dico, io lo vedo impostato benissimo, con una capacità di giocare, di uscire dalle situazioni più difficili, con un ambiente molto unito. Io lo vedo ben impostato, e lo dico prima del crash test, come doppio crash test come l'hai chiamato, contro Inter e Lazio. Sta giocando anche senza Osimhen, io ricordo. Sta giocando senza Osimhen, ma sta giocando con una grande flessibilità comunque anche di uomini, di situazioni, cioè è ricomparso Gulam, tanto per dire, e Petagna è un giocatore che giustamente quando manca Osimhen almeno 45 minuti se li gioca, con grande dignità. Sì, Carlo, Oggi brutto primo tempo secondo me del Napoli, l'ho guardata con attenzione, brutto primo tempo del Napoli, però a proposito di piano B, poi Gattuso l'ha ribaltata mettendo Lozano che ha fatto gol e partitone, Petagna che ha segnato su assist di Lozano e Insigne che comunque in questo momento vedi il primo gol del Napoli, qualcosa di positivo ti cava sempre dal cilindro. Quindi prima lì davvero tante soluzioni. Prima di sentire come la pensa Pier, io dico che da vecchio di questa telefonata, tutte le volte che un allenatore nella storia del calcio, no, cambia la formazione, mette due giocatori nuovi e la vince, la ribalta, c'è sempre una minima divisione tra quelli che dicono la doveva fare come formazione iniziale oppure ha fatto bene a fare questi cambi. Io personalmente posso dire che l'applauso a Gattuso per aver inserito Lozano e Petagna ci sta, Ma io nel primo tempo dicevo era meglio se mettevi subito Lozano e Petagna. Eh sì. Devo essere molto sincero. Anche se veniva fuori da un giovedì non banale di Europa League, non dimentichiamolo. Aspettate perché vi faccio sentire Gattuso che sta iniziando a parlare ai microfoni di Sky. In casa 1-5, altre squadre che hanno fatto fatica, ma no, più di una, sapevamo. In Coppa avevamo speso tanto, avevamo sofferto tanto con una squadra fortissima. E sicuramente la differenza la fa la rosa, quello che hai detto te. Oggi abbiamo cambiato modo, abbiamo messo due giocatori. La partita è cambiata, ma ci sta. L'importante è non perdere equilibrio. Il primo tempo abbiamo giocato malissimo, meritavamo di stare sotto. Secondo tempo la squadra ha tenuto il campo, ha fatto quello che doveva fare, ma ci sta di soffrire questi tipi di partite, specialmente quando si gioca ogni tre giorni. Senta, la sì, anche Napoli la che veniva fuori da un giovedì non banale di Europa League contro la Real Sociedad, un giovedì faticoso, e credo, non so, Carlo, Pier, se siete d'accordo, Pier, con l'analisi di Gattuso, insomma, da questo punto di vista mi sembra abbastanza veritiera. Sì, sì, assolutamente, ne sa qualcosa la Lazio a proposito di fatica e di coppa, no? Di fatica anche psicologica, ne sa qualcosa l'Atalanta, che comunque secondo me ha perso tanti punti in questa prima parte della stagione proprio per la Champions League. Quindi il ragionamento ci sta, sono d'accordo con Sandro sulla considerare il Napoli un'interlocutrice importantissima, indipendentemente da come andranno a finire queste due partite con Inter e Lazio. Sul discorso di Petagna da subito, non lo so, perché le partite sai che hanno degli sviluppi, 90 minuti sono un tempo biblico, sono un tempo lunghissimo, e quindi non è detto che Petagna dall'inizio avrebbe avuto subito quell'impatto lì, cioè insomma ci può stare anche, soprattutto in una situazione in cui sei un po' stanco, una gestione della partita che vive di momenti diversi, quindi però sono d'accordo con l'idea che alla fine questo Napoli trova sempre le soluzioni, cioè la vittoria di oggi secondo me, per come si è messa paradossalmente, proprio perché è stata una partita difficile, secondo me la vittoria di oggi è ancora più importante, assolutamente, perché dà proprio il segno di una squadra che è riuscita a cavarsela in una situazione complicata, piuttosto che se avesse vinto 4-0 facilmente. Voi che avete i capelli bianchi, parto da Sandro Sabattini, che impressione ti ha fatto? Ma parla per te. No, io sono, io sono pettinato diversamente, non è questione di colore. Anch'io. Intanto, esatto, qua ci sono due che i capelli ce l'hanno, io pochi, ho quattro peli, tutti. Sandro, che impressione ti ha fatto vedere debuttare Mattia Pagliuca? Classe 2002, insomma, l'unica nota positiva di un pomeriggio da tregenda del Bologna con la Roma. Ma guarda, personalmente un'impressione molto forte, perché ho i capelli bianchi quando l'avevo più semplicemente biondi. Io ricordo Pagliuca quando si fidanzò e si sposò con la sua ragazza, che credo, ora non vorrei fare gaffe, ma anzi no, non le faccio gaffe, ne sono sicuro, si chiama Aurora, ed è la moglie e la mamma di conseguenza di questo ragazzo. Ora faccio un po' di confusione perché non vorrei che avesse anche una sorella maggiore che invece si chiama Aurora, però Pagliuca giocava all'Inter. Vabbè, Sandro, vabbè. Non stiamo vaghi. Se, se sbagli ti corrigeremo. Dai, no, questa citazione è straordinaria. È un ragazzone che vado sul sicuro, sul fatto di quanto sia un ragazzone a modo, ecco, molto a modo. E quindi so di quanto era importante questo legame, so che mi ha fatto molta impressione perché ragazzi poi ti immagini anche che cosa è passato nella testa e nel cuore di questo ragazzo, fatemi fare tutto quello con i capelli bianchi, ragazzi io sono rimasto molto impressionato anche dalle figliole di Paolo Rossi ieri, ecco, e allora capito quando si tocca il tasto papà, figli, io sono un po' fragile diciamo così, e quindi ho fatto il tipo per Pagliuca, anche se guardavo diretta gol e praticamente non l'ho più visto. Sì, sì. ma per fortuna sua, credo, perché insomma il Bologna l'abbiamo visto troppo nel primo tempo, credo che nell'intervallo insomma non sia stato un quarto d'ora piacevole. Stare in zona Mihajlovic. Mai come in questo momento, credo che tutti, per quello che di tragico, di doloroso sta succedendo, ci stiamo veramente rendendo conto del valore, del significato che hanno nelle nostre vite questi ragazzi. Che sono ragazzi per sempre, sono ragazzi infiniti, che non crescono mai, non invecchiano mai, e quando muoiono, come è successo in questo periodo, ci rendiamo conto di quanto sia doloroso. E quindi sono d'accordissimo con quello che dice Sandro, e vedere le generazioni, Baldini neanche a parlarne, io martedì sera commento una partita che è romantica, perché sarà la sfida fra Pippo e Simone, cioè Ecco, queste vicende qui, in un momento come questo, forse un po', se vuoi, malinconicamente, anche per l'anno complicato che stiamo vivendo e per i lutti che abbiamo vissuto nel mondo del calcio nell'ultimo periodo, ci danno proprio il senso. Per cui un grande in bocca al lupo, ovviamente, ed è bello che queste tradizioni in qualche caso si tramandino di padre in figlio. Insomma, nel calcio poi alla fine conta sempre il talento. E oggi, a proposito bravo, comunque... di figli di cotanto genitore, abbiamo visto anche un gol non banale di Sottile. A proposito di cognomi, che ricordano alla fine, qualcosa. Alla fine questa roba qui è bella perché non è certamente nepotismo, non è certamente favoritismo, ma è il fatto che chiaramente quando hai un esempio così in casa, probabilmente sei portato ad emularlo e in molti casi ci riesci. La famiglia Maldini da questo punto di vista è straordinaria, appunto. Ma auguriamo anche al piccolo Pagliuca classe 2002 appunto. Di fare dopo aver visto la dinastia Maldini, ragazzi, dopo aver visto la dinastia Maldini io non riesco più a sorprendermi di niente. È tutto molto bello vedere questi fiori che proseguono, però ragazzi, dopo la dinastia Maldini, che siamo la terza generazione, ormai non riesco davvero più a sorprendermi di niente. Gianni da Firenze, Gianni. Sì, buonasera. Buonasera. A tutti. Vai. Senti, voglio dire due cose. Una sull'Inter, che secondo me se l'Inter di Conte non vince lo scudetto ha già fallito, perché 20 milioni quanto ha perso? I soldi della Champions l'ha persi. Quindi una ventina, già, sì. 15-20. Ha speso i miliardi. E poi voglio dire una cosa a Mister Genta, su Maradona, Messi, no? Che sento sempre dire. Sul discorso, il dualismo Messi-Maradona. Per me il Messi non vale neanche la metà di Maradona. Ma ti spiego anche perché. Beh, a me lo dice. Ma ti spiego perché. No, va bene. Perché Maradona ha vinto a Napoli. Chi altro ha vinto a Napoli? Poi Maradona ha vinto con l'Argentina una squadra di comprimari nell'86. E questo ci aveva Higuain, tutti i campioni, e non ha vinto mai nulla. E questo è sopravvalutato. Amico mio, ma perché lo dici a me? Perché lo dici a Carlo Genta? Però è un po' hard che va a lui, però non so cosa ne pensate. Per me non vale neanche la metà. Siamo tutti molto maradoniani, ma Genta più di tutti, perché è proprio tifoso dell'Argentina e tifoso di Maradona da sempre. Io credo, provo a chiosare. La metà è un po' tanto. No, ma io il paragone tecnico invece non lo faccio, perché comunque la continuità che ha avuto Messi, che hanno Messi e Ronaldo in questi 20 anni di carriera, secondo me non mi interessa il paragone. Io quello che penso, l'abbiamo detto 1000 volte in queste settimane, è che la forza di Diego paradossalmente è stata per me soprattutto la forza fuori dal campo. Cioè in campo l'abbiamo visto tutti e va bene, ma fuori dal campo è stato, ovviamente con le sue contraddizioni, con i suoi errori che ha pagato, ma è stato sicuramente un personaggio di un carisma, di una genialità, di una letterarietà che Messi non ha. Sì, ecco, che non è stato eguagliato quasi da nessuno. Posso? Vai Sandro, poi ti chiedo, poi ci fermiamo anche la risposta invece che riguarda la parte Inter. No, su Maradona in campo non si discute, su Maradona fuori dal campo accetto il discorso di Pierluigi Pardo, non accetto soltanto quando si scombina a dire deve essere, è un esempio in tutto e per tutto. No, fuori dal campo non è stato un esempio, ecco, capito tutto. Ma qua certo, senza capito, per questo riaccendere, ma senza moralismi, senza niente, bravissimo. Riguardo a Conte, io rifiuto la parola fallimento perché arriva secondo nello sport. La rifiuto per principio. Il secondo non è un fallito. E chi arriva quarto su quattro? Credo di questo stiamo parlando adesso. Aspetta. Il verdetto dello sport, quando sei a livello d'eccellenza, non c'è mai il fallimento. Però, attenzione, nel momento in cui fai i conti economici e finanziari, è chiaro che hai un allenatore a libro paga che ti costa praticamente il doppio del giocatore più pagato, e hai un altro allenatore da pagare, e hai due staff da pagare, e hai un amministratore delegato che guadagna come un top player, ecco, in quel caso il fallimento dal punto di vista economico e finanziario è una parola che si può quantomeno discutere, declinare, certo, accoppiare. Ecco, dal punto di vista del bilancio, indubbiamente è una situazione al momento che potrebbe prefigurare una situazione... Sì, di un progetto. Insomma, ecco. Poi fra sei mesi magari saremo qui a fare discorsi diversi. Ciao Sandro, grazie. Ciao. Grazie Sandro Sabatini, 800 24 00 24. La novità nella Juventus, detto che gioca Dybala con Morata in panchina, quindi gioca Dybala con Ronaldo, è che è fuori Kulusevski e Pirlo ha scelto di aggiungere un mediano in più, Bentancur, nel suo 4-4-2, che dunque a centrocampo avrà McKennie, Bentancur, Rabiot e Chiesa a sinistra. Ci fermiamo un minuto, torniamo. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Andiamo avanti sperando, ecco, che si possa migliorare qualcosa, che magari qualche giocatore che magari può andare a giocare, che vada a giocare, e che magari, ecco, diventiamo più snelli, però più effettivi e più funzionali a quello che vogliamo. Siamo ai tagli di fine stagione, anzi in questo caso di mezza stagione. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, aspettiamo le vostre prenotazioni. 349 238 6666, sms e whatsapp anche vocali. Sono con Carlo Genta, per Luigi Pardo e Massimo Paganin. Ciao Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Mi date un voto ai 58 minuti di Eriksen oggi a Cagliari, Massimo? Ma io direi, per me è stato sufficiente, ma sono bastate quelle giocate che ha fatto, comunque, nelle quali ha liberato Lukaku e è andato al tiro. A me non è dispiaciuto per certi aspetti, considerando che ha fatto la mezzala, aveva giocato veramente pochi minuti negli ultimi mesi, quindi è un giocatore che comunque dovrebbe trovare la condizione del campo. Però a Sprazzi, devo dirti la verità, io ho visto un giocatore che era in grado di fare delle giocate importanti. Poi che si sia adattato o no al ruolo dell'Inter, questo lo può dire solo Conte, praticamente. Non si può fare altrimenti, però ripeto, per quanto mi riguarda, considerando la partita e considerando il momento anche, perché non è facile per lui, immagino, scendere in campo ed essere pronto al 100% avendo giocato così poco, a me non è dispiaciuto. Sì, sospetto che quelle parole fossero indirizzate ad Eriksen, quelle che abbiamo sentito. Carlo, Pier? Sì, io anche direi... perché se va via Vessino... No, ti dicevo, Pier, è chiaro che il nodo del contendere è quel giocatore lì, che è l'unico che ha anche certe caratteristiche, è l'unico paradossalmente che ha i colpi per sconvolgere delle partite. Oggi ha giocato una partita sufficiente, è chiaro che se va via Vessino, se van via altri che non sono le rotazioni, non te ne accorgi neanche. Credo che la cura dimagrante cui faccia riferimento Conte, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, sia proprio quella relativa ad Eriksen. Pier? Io gli do 6, non mi stupirebbe vedere qualche 5 e mezzo domani. Sono d'accordo con Massimo, cioè secondo me la sensazione che lui dà è sempre comunque la sensazione di un giocatore che potenzialmente ha dei colpi, anche come è entrato l'altro giorno in quei pochi minuti contro lo Shakhtar. È vero, ma l'ho detto mille volte, lo ribadisco, che Eriksen sta deludendo, cioè non è che si deve adesso, siccome c'è questo dualismo, stare da una parte o dall'altra. Eriksen sta deludendo, ha ragione Conte da questo punto di vista, perché non ha trovato un giocatore pronto, Eriksen non sta dando delle risposte. Quindi partiamo da questo presupposto: Eriksen non sta andando bene e ci sono sicuramente delle sue segnalo, colpe. Segnalo che non era però titolare dal 31 ottobre, che nelle ultime 8 partite ufficiali dell'Inter era stato solo 15 minuti in campo. Ma infatti io credo che l'atteggiamento sia difficile, anche farsi trovare corretto. Pronto in questa situazione. L'atteggiamento corretto sia quello di dire probabilmente in una squadra che fin qui non è stata vincente, anche se per me è una delle favorite per lo scudetto, ma che fin qui insomma ha un po' deluso, soprattutto in Champions League ha deluso moltissimo, un giocatore così forse vale la pena provare a portarlo dentro al progetto. Poi ovviamente dipende molto da lui, le occasioni ne ha avute poche e quelle io poche credo, ne ha fallite. Dipende da lui e anche un po' dagli altri, cioè non so cosa pensa Massimo. Se oggi Lukaku dopo 5 minuti avesse buttato dentro quel pallone servitogli con un esterno quasi no look da Eriksen, Noi adesso parleremo di un'altra pagella, di un'altra questione. Probabilmente la domanda sarebbe stata posta a Conte in maniera diversa, tutti, no, Massimo? Però, sì, certo. Però, insomma, in una squadra che fa fatica a segnare, io ho detto prima la battuta dell'amico che mi ha scritto: ha fatto di più Eriksen in un quarto d'ora di Vidal in tutta la stagione. Io, mi è sembrato di mettere dentro un di moltiplicatore di azioni, di occasioni. Al 60esimo di Inter-Shakhtar, con la partita che non si sbloccava, diceva che era solo per entrare. Anche magari confidando sullo spirito di rivincita, quasi sulla provocazione, dimostrami quello che sai fare. È entrato tardi pure l'altro giorno. Io, cioè, quello che voglio dire è che secondo me non è che ci deve essere per forza un dualismo, non dobbiamo andare appresso per forza al dualismo. Qui siamo di fronte a un giocatore che sicuramente non sta dando il contributo che poteva dare, quindi è un giocatore deludente. Poi probabilmente il fatto di mettergli una croce sopra, di dargli così poche possibilità, è... Mi sorprende perché non stiamo parlando di una squadra perfetta che sta dominando, che ha passato il turno con la sigaretta in bocca in Champions League. No, ma di una squadra che sembra aver bisogno di quella cosa lì. Cioè, no? Prima però non riesce a estrarla da Eriksen. Altra domanda per Massimo Paganin. Il piano B che abbiamo visto oggi negli ultimi 20 minuti, quindi sostanzialmente il trequartista dietro le due punte, è sostenibile anche dal primo minuto? Beh, secondo me sì, con D'Ambrosio e Darmian, però diventa, almeno che, cioè, dipende dalla, è chiaro che dipende dalla partita, nel senso che ci deve essere tanto equilibrio. Cioè, non dimentichiamo che c'è anche Kolarov che può giocare a sinistra eventualmente come terzino ed è in grado di farlo, a mio modo di vedere. Hakimi abbiamo visto che ha delle difficoltà sul piano difensivo e quindi deve cercare di trovare un certo equilibrio nel momento in cui decide di fare giocare la squadra in quel modo, però per me è sostenibile con un centro, con una difesa a 4, un centrocampo a 3. Davanti puoi giocare con un 4-3 fantasia, se vogliamo, può decidere chi far giocare davanti, certo, eventualmente. Per cui per me la qualità dei giocatori, abbiamo visto Sanchez è un giocatore che ha caratteristiche sue che non sono quelle né di Lautaro né di Lukaku. Lukaku può giocare da prima punta, Lautaro può ruotare dietro, quindi ha tre giocatori davanti che sono compatibili e sono complementari l'uno all'altro e può utilizzarli. È chiaro che non è così semplice, è un po' alla volta, secondo me questo equilibrio lo può trovare, può far giocare la squadra in questo modo nel momento in cui vengono anche i risultati. In questo momento qui cambiare semplicemente perché non ha passato il turno in Champions mi sembra un po' azzardato, un po' troppo frettoloso. Io poi non mi voglio mettere nei panni di Conte, Carlo, che dovrebbe spiegare che anche Hakimi è poco funzionale. No, infatti, no, hai ragione, però no, perché poi noi giustamente un minuto dopo diremo ma Hakimi, sì, perché insomma è il lavoro di chi critica. No, certo, ma ragione Massimo, naturalmente, cioè è anche una questione di equilibrio, però il piano B vale, ne abbiamo parlato insieme io, te, Giovanni, Pierluigi, cioè lo facciamo quasi tutti i giorni, a domandarci perché Conte non usi un po' più di creatività, un po' più di in maniera un po' più profonda la rosa profondissima che ha a disposizione, quindi a condizione che ci credano tutti, certamente questa può e deve diventare una variante per l'Inter, ripeto, a patto che ci credano tutti, a cominciare da Conte. Allora, c'è il traffico, ci dobbiamo fermare. Ciao Massimo, grazie. Ciao, grazie a voi, buon lavoro. Massimo. Ciao. Grazie ciao, Massimo Paganin. Ci fermiamo perché tra pochi istanti andiamo a vivere gli ultimi minuti del prepartita di Genoa-Juventus. Vi do la formazione della Juventus. Szczęsny in porta, Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alexandro sulla linea difensiva. A centrocampo, come detto, McKennie con Bentancur, Rabiot e Chiesa, davanti Dybala e Ronaldo. Il Genoa dovrebbe essere stato schierato in maniera più prudente rispetto a quelle che erano le attese da Maran. C'è Perin che è recuperato in porta, in difesa Pellegrini, Goldaniga, Bani e Masiello, poi Rovella, Radovanovic, Leraghe, Resturaro, Piazza e Scamacca. Traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Se ce l'abbiamo ancora in testa, allora cancelliamocela, perché bisogna voltare pagina, bisogna dare continuità, non deve essere stato solo questo tipo di partita fatta perché era contro il Barcellona, ma bisogna continuare su questa voglia, con questo ritmo, perché adesso c'è il campionato e quindi bisogna pensare a fare meglio in queste ultime quattro partite. Il dobbiamo avere la stessa voglia, la stessa concentrazione, perché se non andiamo con questa voglia poi andremo in corso a brutte sorprese, quindi ci concentriamo per fare delle grandi partite. Andiamo a Marassi dal nostro amico Max Nerozzi. Ciao Max. Ciao, buonasera a tutti. Allora, abbiamo dato le formazioni, ci aiuti a capire da cosa nasce l'idea di Pirlo di inserire un mediano in più, Bentancur, e togliere quello che era atteso, quindi Kulusevski? Penso che venga dai buoni risultati di Barcellona, dove al di là degli uomini aveva avuto una squadra un po' più compatta e soprattutto in mezzo, più corta, e quindi ripropone il modello. Tu hai tirato fuori il capitolo Kulusevski e c'hai ragione, perché lui su 14 giornate, contando questa, ne ha giocate 8 da titolare, ma 8 volte è stato sostituito, il giocatore più sostituito della Juve. Quindi insomma è evidente, minutaggio a mano, che comunque l'inserimento non è del tutto semplice, soprattutto quando gioca Dybala. Posso essere cattivo? È l'erede del Dybala dell'anno scorso, di 2 anni fa? Cioè, su utilizzo sì, il problema o la curiosità è che lui invece avrebbe doti fisiche, tecniche ce l'ha, ma fisiche per invece imporsi subito una squadra del genere. Pronti via con la Sampdoria, se ti ricordi, anche da seconda punta giocò una grande partita, poi un po' si è smarrito, vedendola da fuori, anche perché è stato un po' sballottato tra i mestieri, trequartista, esterno, seconda punta. Insomma, forse Pirlo sta cercando di trovare la collocazione migliore per lui. Carlo, Pier, cosa vi aspettate da questa Juve stasera? Ma io sono curiosissimo di vedere questa partita, perché non riesco a dare un valore assoluto e un peso specifico alla partita di Barcellona. È stata talmente sui generis, meravigliosa, però è stata talmente sui generis nel momento della Juventus che non riesco a darle un valore. Kulusevski, considerato l'età, insomma, è partito molto bene in questa stagione, poi si è un po' perso per strada, però ragazzi, un filo di apprendistato, riconoscendone tutte le doti, lo si può anche riconoscere. Certo, io sono un fan di Kulusevski, perché sono potenzialmente un grande talento, quindi, però insomma non mi pare uno scandalo, una notizia il fatto che non giochi, il fatto che venga sostituito spesso. Ma io credo che Pirlo, in quella dichiarazione che abbiamo sentito, abbia tra virgolette contestato il suo punto di vista, perché cerca e punta a riproporre anche con squadre meno blasonate, con qualche, no, con anche tatticamente diverse, con un po' di motivazione forse inconscia in meno, la stessa qualità che si è vista contro il Barcellona. Quindi io credo che il plot, l'obiettivo, il piano della Juve sia molto semplice, sia riprodurre anche nelle partite tra virgolette banali del campionato quella stessa ferocia che si è vista a Barcellona, con contesti tattici che sono più complicati, magari ambientali e tattici che sono più complicati. È la sfida, è la sfida di Pirlo, tenere alta quella voglia, quella grinta, quella fame, quella motivazione che si è vista a Barcellona, che vuole vincere il campionato. Sì. E il test di oggi è interessante, certo. Ma Max, io ho avuto l'impressione, ascoltando ieri Pirlo, che lui non abbia la certezza oggi di avere questa risposta dalla Juventus. Non c'era assolutamente, hai ragione, perché dopo Crotone è venuta Benevento, e come diceva Pierre, qui abbiamo assistito alla banalità dell'errore, cioè davanti a formazioni oggettivamente inferiori la Juve si è appisolata nei gol e nelle azioni, e per questo che Pirlo oggi ha paura. Secondo me fa bene, anche se Marassi resta un impianto bellissimo, fascino molto British, ma oggettivamente senza il pubblico addosso un po' perde di quel senso di imboscata che la Juve ha sempre sofferto. Anche quando qui ha vinto, io ho sempre visto partite molto molto combattute. Ultima domanda, Dybala gioca perché adesso può fornire per 90 minuti un rendimento di un certo livello, o perché far giocare Morata dopo averlo recuperato all'ultimo secondo per la cancellazione della seconda giornata della squalifica avrebbe trasmesso un messaggio insomma abbastanza chiaro, ma aprendo poi ad altro dibattito e ad altre discussioni? Gioca perché è migliorato sensibilmente fisicamente, i suoi valori erano abbastanza bassi dopo il trattamento con antibiotico e oggettivamente sta un po' migliorando, e io penso che sia veramente il nocciolo della sua inizio di stagione, perché ha avuto giornate in cui non è andato a allenamento, si è allenato a casa, e anche lui, che è un giocatore di talento, di tecnica, se non ha le gambe, l'abbiamo visto anche gli anni scorsi, fa molta molta fatica. Quindi da questa sera dobbiamo cominciare a misurare Dybala, veramente? Beh, insomma, inizierei, perché un po' di tempo è passato. E non puoi non insistere con Dybala, anche se secondo me rischia di essere molto sotto a Morata, anche andando più avanti, perché secondo me Morata comunque ha una dimensione internazionale, cioè se Morata fa una buona stagione per me Morata è il titolare, però, però comunque Dybala devi recuperarlo, perché è un giocatore che pur appunto, con delle intermittenze ti ha dei colpi di genio e di talento che ti possono essere utili, per cui insomma oggi è proprio, era proprio un'occasione. È chiaro che far giocare Morata dopo averlo recuperato dall'infortunio, dopo che insomma non ci stava, dai, che poi banalmente ragazzi Dybala è la terza punta di tre, il quarto è da Graca, giusto, no? Max, quindi... ma gioca, no, gioca anche perché cose... è un problema, Max, no, gioca anche perché è un problema da risolvere, no, dico gioca anche perché Dybala è un problema da risolvere e non risolvi il problema di Dybala se lo lasci fuori in situazioni come questa, quindi quel che diceva Pia prima è anche questo di mestiere, nel senso che Dybala non sarà mai Morata, avrà altre armi che la Juve faranno comodo soprattutto in Champions. Detto questo, Morata venne qua, vi ricordate, con la faccia bravo ragazzo, il predestinato, faceva sempre gol, gli mancava un po' di cattiveria, ma non cattiveria perché non avesse voglia, ma proprio nel modo di giocare. Un suo compagno l'altro giorno diceva, ora somiglia a Diego Costa, non nel senso di giocare, ma se avete notato anche a Barcellona, Morata era bravissimo nelle ripartenze, vi ricordate quello di Monaco di Baviera, sì, sì. Ma ogni tanto soffriva il difensore che lo picchiava da dietro. Non è più così. Faceva, ecco, no, adesso è diventato un giocatore un po' più strutturato su questo. È tornato cresciuto. Ci dobbiamo fermare perché c'è il GR. Allora io ringrazio, buona partita a Max Nerozzi. Ciao a voi. Inviato buona per giornata. Il Corriere a Marassi per Genoa Juventus. Saluto anche Pier. L'appuntamento ciao, con ciao, te ciao, domani ciao, dopo Pier. Il GR delle 14. Noi invece ci risentiamo fra qualche minuto. 800 24 00 24. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma in quale momento della stagione secondo lei si può parlare con maggior cognizione di causa a questo punto? No, la mia non è prudenza, la mia è una valutazione sul valore, sugli organici delle altre squadre, ma sono altrettanto convinto che anche noi siamo forti e lo stiamo dimostrando in campionato e anche in Europa, quindi una partita alla volta è il nostro obiettivo. E cercare di passare un bel Natale noi in queste ultime quattro partite e di farlo passare anche ai nostri tifosi. Abbiamo ancora tanto calcio da raccontare in questa domenica, quinto minuto di Genoa Juventus a Marassi 0-0, ma a proposito di cose da raccontare ce ne sono già almeno un paio, partendo da un gol annullato dopo 60 secondi alla Juventus, gol segnato da Rabiot che praticamente sulla linea ha toccato dentro la porta un precedente colpo di testa di Bonucci, lo ha fatto però colpendosi il braccio e quindi il direttore di gara ha annullato la rete e poi ha ammonito Rabiot e poi c'è stato un calcio di punizione di Sturaro pericoloso dal limite dell'area di rigore per un fallo di McKennie su Rovella. 0-0. Stefano Ragno, ciao. Ciao, buonasera a tutti. A proposito dei giovani rampanti, oggi parlavamo di Mattia Pagliuca, parlavamo di Sottil, questo Rovella non è male del Genoa che nel cuore ti sta? No, sicuramente è uno dei giovani che si è messo comunque in evidenza, certamente è un ottimo centrocampista e sono contento perché abbiamo bisogno di questa qualità, perché pur essendo così giovane sicuramente gioca da come se fosse un veterano con grande personalità, perciò contento che si riesca a stornare un po' di giovani perché ne abbiamo veramente bisogno. A proposito dei giovani, Carlo, oggi Spinazzola versione extra lusso, come gli capita, devo dire, abbastanza spesso in questa stagione. Beh, insomma, direi tutta la squadra in versione extra lusso. Gli capita abbastanza spesso perché è un eccellente giocatore, quindi non mi sorprende più di tanto la partita che ha fatto. Quanto al Genoa, è tantissimo tempo che non riesce a produrre giocatori di livello, quindi Rovella lo seguiamo con particolare affetto e attenzione, per la cronaca indiscutibile, credo anche per Marelli, l'annullamento del gol di Rabiot, segnato a corpo morto con la mano, quindi credo proprio non mi sembra un fattore. 18:45 Varanato, mi sentiamo Luca Marelli anche su altri episodi di questa giornata. Siamo partiti, Stefano, facendo sentire la voce di Pioli, che alla domanda, va bene, il Milan non è da scudetto, ma quando è che si può sciogliere la riserva, se sia da scudetto o meno, ha detto: io non faccio prudenza tanto per farla. Dico che analizzando le rose c'è qualcuno che fa meglio del Milan, che è meglio del Milan. Beh, sicuramente se si va a vedere la rosa in sé, ma soprattutto ai nastri di partenza, questo si poteva dire. Adesso devo dire che il Milan ha dimostrato di avere grande qualità, una rosa anche con una panchina dove adesso ci può contare sicuramente Pioli, forse in alcuni reparti è un pochettino corto, però sono convinto che è diventata talmente squadra e ultimamente si è visto anche senza Kjær e Ibrahimovic, che sono i leader di difesa e i leader d'attacco, perciò è stato sicuramente un bel esame quello di superare anche in Coppa UEFA nella partita precedente in campionato senza questi due giocatori, di aver fatto comunque bene, perciò è una squadra che è in fiducia, autostima, è normale, questo campionato poi ha fatto vedere, ha dimostrato che tutto può succedere, è normale che Inter e Milan e Juventus hanno qualcosa in più e sicuramente alla fine potrebbero farcela ancora. Io penso che l'Inter, oltre che avere una grande squadra, il fatto di essere uscita dalle coppe, forse questo potrebbe essere un vantaggio per puntare tutto sul campionato. Io mi auguro che il Milan riesca a tenere duro, però certamente non è a meno delle altre. Sai Carlo, mi è venuto in mente in questi giorni in cui si ragionava su quale sia il vantaggio di giocare una stagione come questa senza le coppe, mi è venuta in mente un'immagine, una metafora molto automobilistica. È come correre col DRS innestato. Sì, è vero, è realistico Giovanni, anche perché mi sembra che in una stagione così strana la cosa più importante sia quella di trovare continuità. No? È chiaro che non avendo le coppe la continuità la puoi trovare più facilmente. Quello che al Milan in questo momento più delle altre sta nel fatto che sempre per usare una metafora automobilistica tiene il passo gara senza eccessivi problemi. Vedi che le altre fanno molta più fatica, anche il Napoli oggi è andato sotto, poi ha rimontato. La Juventus va a pareggiarti un paio di partite che normalmente non pareggia. Il Milan ha un passo gara molto più stabile e più solido. Questo secondo me è il dato che balza all'occhio. Poi è chiaro che in una stagione così strana, ripeto, è importante trovare continuità, non perdere secondi preziosi nei pit stop, insomma. Attenzione, intanto Juventus che sta cingendo d'assedio la difesa del Genoa, pochi istanti fa tiro cross di Ronaldo pericolosissimo sul secondo palo, un giocatore del Genoa ha rischiato l'autogol per mettere in corner. Sugli sviluppi del corner sono rimasti liberi un paio di giocatori della Juventus in mezzo all'area di rigore, ci ha provato McKennie di testa e Perin ha dovuto smanacciare ancora in calcio d'angolo. E quindi ancora la Juventus resterà nel settore offensivo. Juventus però che ha preso davvero col piglio giusto, quasi da Champions League, questi primi minuti della trasferta Marassi con il Genoa, girata di testa di Bonucci alta sulla traversa. Stavamo parlando, Stefano, del lavoro di Pioli. Oggi torna Bennacer, ore 20:45 a San Siro contro il Parma. Mi pare però che Pioli stia completando anche il lancio di Tonali. Sì, anche perché se Tonali è un po' un diesel, anche per struttura, ha bisogno di giocare con continuità, pur facendo i propri errori, perché la maglietta del Brescia ha un peso e quella del Milan un altro, perciò devo dire che partita dopo partita comunque sia Tonali ha dimostrato di avere delle qualità, si deve ancora vedere il miglior Tonali, però certamente in un gruppo del genere può solo che cresce. E poi non solo, secondo me anche i Rebic, Hernandez, cioè secondo me sono giocatori, cioè il Milan può ancora crescere se alcuni giocatori riescono a trovare veramente la forma migliore, che ancora alcuni di questi, quelli che poi ho nominato, non hanno ancora raggiunto. Perciò secondo me anche questo Milan ha ancora margini di miglioramento, e come ho detto poi sono i risultati che sono quelli che ti danno la giusta fiducia. Perciò se continua di questo passo, come ho detto prima, sono convinto che si può veramente divertire quest'anno. Ciao Stefano, grazie. Grazie a voi, ciao. Un abbraccio. Grazie, ciao. Grazie Stefano e Aragno. Ci sono Pietro da Torino, Alessandro da Milano. C'è un minuto di traffico e ripartiamo da loro. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. :13 sul cronometro. Marassi 0-0 tra Genoa e Juventus. Mi pare, Carlo, una buona Juve in questo primo quarto d'ora. Sì, sì, sì, sì, ottimo atteggiamento della Juventus. Poi stavo ripensando a quanto dicevi tu prima. È una Juve, o Max Nerozzi, comunque è una Juve molto più corta, molto più compatta, mi sembra molto più equilibrata. Quindi può essere che Pirlo abbia trovato, almeno in questo spicchio di campionato, la strada giusta con questa squadra. Può essere il suo piano B. Pietro da Torino, 800 24 00 24. Pietro. Sì, ringrazio per la convocazione. Grazie a te, vai. No, niente, io come Pardo sono iscritto al partito di Lukaku e volevo puntualizzare una cosa, che Lukaku è l'unico che sbaglia, perché è l'unico che tira nell'Inter. Ci sarebbe anche un ragazzo danese, biondo, che potrebbe tirare anche lui, ed è un buon tiratore, da memoria londinese, eppure non viene fatto giocare, ma anche lo stesso Barella, lo stesso Brozovic. Beh, Barella oggi qualcosina ha fatto, tirando. No, ok, no. Però al 70° eravamo arrivati che Conte continuava a tirare Brozovic, tira. Nessuno tira in questa squadra, ed è anche uno dei problemi, perché le situazioni si sbloccano anche senza tutto questo gioco, si sbloccano anche con un tiro dalla distanza di un buon giocatore e si va in vantaggio e la partita si chiude. Lautaro non mi sembra stia facendo benissimo, quindi io sono un interista di ferro, però tendo a non dare neanche queste colpe a Conte. Diciamo che è un buon mix, no? Cioè... Sì, ci sono un po' di cose da sistemare. Alessandro da Milano, Alessandro. Buonasera, scusate. Vai. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Sto guardando anch'io da Juventino una buona Juve in questo quarto d'ora. Mi piace, sì. Mi sembra con la testa e con la faccia di Barcellona, insomma, con quello che significa. Andato di traverso. Volevo fare però tre precise azioni sull'ex allenatore. Però rapido, Vai, sono tre, quindi rapido. Allora, non ci si deve stupire del background europeo di Antonio Conte, visto che comunque con la Juve ha sacrificato praticamente la finale di Europa League per scolpire nel marmo il record di 102 punti. A Istanbul pareggiamo, perdemmo col Galatasaray perché c'era la neve, ma giocava anche il Galatasaray con la neve, e mi sembra che nel percorso che abbia fatto con il Chelsea in Europa sia uscita agli ottavi di finale. Poi un'ultima cosa invece su Lukaku. Lukaku deve incominciare a segnare gol importanti per diventare un grande attaccante, perché il gol dell'1-0 è difficile che li segna. Ok? Sai Alessandro, poi faccio rispondere a Carlo Genta, che amici interisti mi hanno sempre detto che il problema è che Lukaku non fa quasi mai gol del 2-0. Anche l'anno scorso qualche volta è capitato gol sbagliato da Lukaku e poi magari arriva, mi viene in mente Inter-Barcellona se non sbaglio, partita decisiva, viene a mancare il gol del 2-1 in quel caso. Però insomma gireremo la critica, a me pare che le critiche su Lukaku siano assolutamente ingenerose, Carlo. Ma no, ma come fai a trovare delle critiche da fare a Lukaku? Gol del 1-0, del 2-0, del 3-0. Cioè, mi sembra che l'Inter se la stia portando offensivamente sulle spalle lui da ogni punto di vista. Se poi mi dici che deve segnare contro la Juventus, che dovrà segnare in partita. Ma sì, ma è anche un po' una leggenda metropolitana, partita, questa cosa qui. Ma lo è assolutamente. Dai, lo è assolutamente. Quando uno fa 30 gol in una stagione, li fa anche nelle partite che conta. Segna, ma certo, è ovvio, mi sembra un discorso e un ragionamento ormai molto pretestuoso. Poi sul curriculum europeo di Conte vedremo. 0-0, 18esimo minuto, Marassi tra Genoa e Juventus. Attenzione perché c'è la Juventus che ha una buona occasione dal limite dell'area di rigore. C'è Dybala che ha sbagliato il controllo, è arrivato di gran carriera Bentancur alle sue spalle, destro che si è perso circa un metro lontano dai pali della porta, difeso da Perin. Allora andiamo sull'altra sponda di Torino, se siete d'accordo. Non siamo stati all'altezza, la partita non mi è piaciuta. Abbiamo giocato un primo tempo con il braccino corto, scolastici, assumendoci poca responsabilità, con poca personalità. E nel secondo tempo, quando la partita sembrava persa, la squadra ha avuto una reazione di pancia, istintiva, emozionale, ma se vogliamo anche disordinata. Il presidente ieri sera è stato a cena con noi, ha fatto un discorso importantissimo, serio, con contenuti, ha trasmesso il suo messaggio, quindi la società è vicina, la società è lì, siamo noi che dobbiamo assumerci migliori responsabilità. Cairo che è stato vicino al Toro, ma il Toro ha perso ancora in casa. E adesso parliamo del Toro. Toro che ha firmato, Cairo ha firmato il suo DPCM personale, ha mandato tutti in ritiro, quindi niente zona gialla, non si esce. Oggi c'è un altro DPCM che è stato firmato da Mihajlovic, vi leggo il virgolettato, poi saluto Mauro Berruto. Il primo tempo è stato disastroso, da scapoli ammogliati. Noi eravamo gli scapoli e gli ammogliati e loro i professionisti, loro sono quelli della Roma. Bologna che va in ritiro fino a Natale. Berruto, ciao. Ciao, buonasera. Dura la vita degli allenatori, sotto Natale. Sì, sotto Natale, ma un po' sempre, diciamo. Non è tanto questione di stagione. No, vi ascoltavo ragionare su Conte, su Lukaku, dicevo, mi piacerebbe avere di questo tipo di problemi, capite? Sì. Invece i problemi del tifoso. Beh, Belotti non è male, insomma. Sono molto più basici. No, grazie al cielo, anzi, Belotti sta facendo, al di là di quello che è il suo mestiere, che fare gol, sta facendo un lavoro impressionante, veramente, a favore della squadra, però mi sembra che sia un po' una voce isolata in questo momento e questo mi dispiace e da tifoso mi fa un po' arrabbiare. Ma qual è il problema del Toro? Ma mi sembra che sia un po' uno psicodramma in questo momento, nel senso che si è infilata una serie senza soluzioni di continuità di prestazioni davvero strane, non solo legate alla sconfitta, ma anche un po' al modo in cui quelle sconfitte sono arrivate, no? Penso prima a tutta la sequenza, sapete che credo siano 16 punti persi da posizione di vantaggio. Ieri questa situazione paradossale al contrario, per cui la partita sembra andata, la riprendi per i capelli, in un minuto sei di nuovo sotto e ricominci da capo. Quindi mi sembra davvero che ci sia una fragilità, certamente tecnica, perché credo che il numero di gol impressionante che il Toro sta subendo mediamente ogni partita naturalmente abbia anche a che fare con una questione di assetto e di qualità in quel reparto, però c'è anche certamente un detonatore di questi problemi che è sicuramente legato a un momento davvero complicato e davvero brutto, ma brutto per tutti, per i tifosi, per la società, per la squadra, per l'allenatore, insomma. Carlo, è difficile decidere, no, se tenere i nervi saldi o pensare a una svolta. Sì, ma fino adesso ci hanno provato a tenere i nervi saldi. Tempo, pazienza, nuovo corso, nuove idee di un allenatore molto particolare. Però bisogna anche darsi un termine, perché andando avanti così davvero il Toro rischia di pigliare una china dalla quale poi è piuttosto difficile rialzarsi. Quindi secondo me certamente vale il discorso della calma, della pazienza, ritiro, DPCM, quello che vuoi, però bisogna anche darsi un termine, perché questa mi sembra una squadra che continua ad avvolgersi su se stessa, e quando perde in casa con l'Udinese poi diventa difficile, dove dopo devi andare a recuperare tutti questi punti se ti vuoi salvare, perché mi sembra questo l'obiettivo del Torino realisticamente, no? Mauro? Beh, sì, no, non c'è dubbio, nel senso che è anche bene fissarlo bene in testa quell'obiettivo lì, perché come ben sapete quando si vola particolarmente in alto, poi il rischio di farsi del male, non essendo abituati magari a navigare in certe zone di classifica, è ancora più grande. È chiaro che, ecco, da allenatore posso dire che in un momento così complicato, anche mentalmente, è ovvio che un allenatore dalla filosofia così forte, no? Che quindi ha bisogno di un grande rigore, di un grande rispetto, di un certo modo di giocare, probabilmente è un processo ancora più complicato del normale, perché è evidente, insomma, è percepibile anche semplicemente guardando, ahimè, come si può soltanto fare dalla televisione, quindi vedere davvero questo livello di tensione che si tramuta in momenti in cui la squadra perde proprio di mano il volante della partita. Abbiamo certamente un punto di forza, l'avete citato e lo sottolineavo, che è lì davanti e che è uno che di gol ne fa in quantità industriale, ha festeggiato il suo centesimo, e avevamo, questo mi dispiace un po', perché avevamo l'anno scorso un grande punto di forza anche fra i pali. Quest'anno quella posizione lì sì, un po' alterno, Sirigu. Sì, certamente non è all'altezza delle stagioni precedenti. Ecco, questo tu è un altro sei uno dei tifosi del Toro che ad esempio addebita a Sirigu di essere uscito poco nel derby, a proposito di uscite. Sì, diciamo, ma io ripeto, non ne faccio una stazione legata a degli episodi, perché certamente, insomma, non ho neanche la competenza per poterlo fare, non voglio fare discorsi qualunquistici. Dico che in assoluto quello che Sirigu aveva espresso come qualità media molto molto molto elevata anche in momenti complicati, non è che l'anno scorso sia stato tutta una passeggiata di salute per il campionato del Toro, però ecco, quel punto di forza lì era assolutamente uno di quelli della squadra, certamente va recuperato, ecco, quella solidità lì va recuperata. Capisco che sia molto complicato per un portiere, ribadisco, vedersi una media di gol subiti a partita che è veramente imbarazzante. Sì, troppo, per essere giustificato a qualunque discorso tecnico. Comunque la parola chiave che ha pronunciato il coach prima è psicodramma. Mi sembra una squadra molto fragile mentalmente, cioè che quando va in difficoltà non riesce ad uscire da quel buco lì, quindi probabilmente l'aspetto mentale è quello più preoccupante. Sì, è come se ci fossero dei momenti della gara che proprio determinano uno switch dal punto di vista della mentalità. Esatto, no? Le cose stanno anche andando bene, ripeto, spesso è successo all'inizio e difatti ci siamo trovati a condurre un sacco di partite tenendo avanti il punteggio. Ieri è successo al contrario, cioè partenza terribile, ripeto, un riacciuffare la partita per i capelli e subito immediatamente di nuovo un minuto di follia e si torna da capo. Sono proprio dei momenti chiave che quando capitano fanno veramente andare tutto un po' a ramengo, no? Nel senso, si percepisce che non ci sia più una solidità a cui aggrapparsi. Ma si usa il bastone o la carota in uno spogliatoio? E guarda, allargo il discorso, anche abbiamo letto prima, insomma, che cosa ha detto Mihajlovic oggi nel primo tempo. Il Bologna ne ha presi 5 più 2 gol annullati e più altri 2 che Dzeko ha sbagliato praticamente a porta vuota. Primo tempo il Bologna poteva prendere serenamente 8-9 gol. Si usa il bastone o la carota poi il giorno dopo? Naturalmente si usa un sapiente equilibrio di bastone e di carota, che è un po' come chiedere a Cracco qual è la ricetta. Mettere... Esatto, cioè dirti quanto... Cioè io e Carlo sbaglieremmo di sicuro, tu magari no. Esatto. Quanto basta, come dicono i cuochi, no? QB, ecco, certamente... come sapete c'è stato anche un accenno di contestazione durante la settimana con i tifosi del Toro che sono andati così a chiedere un confronto con la squadra, molto civile, molto diciamo nei termini del lecito. Sicuramente adesso è davvero il momento, io non so quanto bastone, quanta carota usare, ma certamente è il momento in cui occorre chiudere le porte dello spogliatoio e parlarsi in maniera molto esplicita e molto chiara, perché ribadisco, il rischio non è di fare una brutta stagione, una stagione deludente, il rischio è di retrocedere in Serie B, questo deve essere chiaro a tutti. Deve essere chiaro tutto. Grazie coach. A voi, buonasera. Grazie, grazie. Grazie a Mauro Berruto. 27esimo minuto, Marassi 0-0 tra Genoa e Juventus. Juventus che continua a fare la partita, Carlo, anche se negli ultimi 7-8 minuti ha un po' abbassato l'intensità dopo aver creato anche diverse occasioni da gol nel primo quarto d'ora. Juventus che però ha solidamente in mano, saldamente in mano la partita. Sì, saldamente in mano la partita, però a proposito di squadre un po' in difficoltà, il Genoa, che pure non è in un momento brillantissimo, ecco, sta offrendo fin qui, dopo 27 minuti, quindi un nulla, forse la più convincente prova stagionale. Ripeto, però, è una Juventus che a me piace. Mi piace un po' meno Dybala, ti devo dire la verità, da quanto si vede fin qui, però è una Juventus che mi sembra abbia l'assetto giusto, l'assetto corretto e l'atteggiamento corretto. Anche la faccia giusta. Sì, la faccia giusta. Allora, ci fermiamo, un minuto di pausa, poi apriamo una parentesi per raccontare che cosa è successo questo pomeriggio a Yas Marina, a Abu Dhabi, dove si è chiusa la stagione della Formula 1 con le due Ferrari doppiate, entrambe, 13ª e 14ª, con Leclerc che ha vinto il duello interno con l'ultimo Vettel della storia ferrarista. E poi vi ricordo alle 18.45 l'appuntamento con Luca Marelli con Var Anatomy. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Voi siete la squadra rossa, appassionati, arrederete mai. La mia fermata sta arrivando, mi è piaciuto stare con voi. Sentito la vostra magia, un sensazione straordinaria. Ragazzi, mi ringrazio per avermi. Mi mancherete. Un saluto a tutti voi a Maranello, meritate, menzionato qui. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio. Auguro di essere felice, ma di più essere sano. Da-da-da, da-da-da. Grazie. Beh ragazzi, Carlo, io non so, questo è stato il team radio con cui Vettel si è congedato dalla Ferrari. Cioè, quanto tempo ci ha messo a impararla? O l'ha cantata così, se l'ha inventata così da grande rapper? Inventata, non credo. Io vorrei essere buono, invece sarò cattivo. Umberto Zappelloni, ciao. Ciao. Ha avuto un anno, del resto ha fatto 33 punti in una stagione e ha avuto tutto il tempo di studiarsi azzurro. Sì, sembra che si sia messo, che si sia portato anche un fogliettino nell'abitacolo, lo abbia estratto poi all'ultimo giro. Esatto. Però è stato bravissimo. Io devo dirti che è stato un bel gesto. Lui ha fatto capire fino in fondo di essere stato innamorato della Ferrari. Un innamoramento che all'inizio era anche stato corrisposto, poi dopo sono mancati i risultati suoi e l'amore è finito. Però la Ferrari perde sicuramente un grande uomo, non è stato il pilota campione che la Ferrari pensava di aver portato in casa, non è stato un nuovo Michael Schumacher, è stato più un Fernando Alonso, un Alain Prost, un pilota che è arrivato da campione del mondo e non è riuscito a riconfermarsi a Maranello, però se ne va vincendo 14 gare, il terzo di ogni epoca in Ferrari, quindi un ricordo lo lascia anche nelle cifre. Sì, ultimi due anni, una vittoria e 9 podi, un podio quest'anno, 33 punti quest'anno. Io malignamente mi ero fatto il calcolo, insomma, ogni punto è costato 1.200.000 mal contate alla Ferrari, no? Insomma, quando è tempo di bilanci poi bisogna mettere dentro tutto, non sarà solo colpa sua, anzi, quest'anno è soprattutto colpa della Ferrari, però ci ha messo chiaramente del suo anche oggi Umberto, insomma abbiamo visto le Ferrari doppiate in una gara vinta da Verstappen davanti a Bottas ed Hamilton, doppiate lontanissime. È incapace di superare una Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, la Ferrari peggiore, se non la peggiore della storia, una delle peggiori della storia, sicuramente forse solo all'inizio degli anni 90 e poi ancora negli anni 80 c'è stata una Ferrari peggiore di quella che abbiamo visto quest'anno, una cosa veramente brutta. Seb quest'anno ha fatto un anno da quattro, non si può dire che sia stata una stagione migliore, perché le ha prese di santa ragione dal suo compagno di squadra, ha ottenuto soltanto un podio per grazia ricevuta, 14 volte non è arrivato neanche in Q3 in qualifica, insomma, certo è stato licenziato prima che cominciasse la stagione, qualche errore nella gestione del pilota è sicuramente stata fatta, lui poi ci ha messo un po' di suo. Io credo che il suo bilancio da ferrarista vada sul 7, perché insomma Seb ha fatto tanto, il suo bilancio di questa stagione non va oltre il 4 sicuramente, se vogliamo stare ai voti di fine anno. Carlo? Però tristissimo, no, dico tristissima la gara di oggi, comunque al di là della, della canzoncina finale, una gara da 13°-14°, potevi sperare in un sussulto d'orgoglio, quantomeno per salutare un pilota in cui hai creduto, no? Invece ha ragione il direttore, è una delle esibizioni peggiori che si possano ricordare. Si può notare invece che, insomma, li hai citati tu prima, Umberto, sono diversi ormai i piloti campioni del mondo, i fuori classe che sono stati tritati dalla rossa nelle stagioni grame. Assolutamente, qui sta diventando lunga la mancanza di vittoria dal mondiale, perché ormai il mondiale è l'ultimo, è quello di Kimi, insomma, se ne sono passati di anni e soprattutto non si vede un 2021 in cui la Ferrari possa recitare da protagonista per vincere il mondiale, perché sta nelle loro dichiarazioni. Sicuramente un anno peggiore di questo sarà impossibile vederlo, perché peggio di questo non abbiamo, veramente è difficile, un motore, un sussulto nel motore lo avremo. Ci sarà una squadra senza campioni del mondo, per la prima volta proprio da quell'anno in cui vinse il mondiale la Ferrari non avrà piloti campioni del mondo, avrà due piloti molto giovani, però non è, il problema non è lì, il problema è nella struttura, il problema è nel motore, adesso bisogna cercare anche un amministratore delegato, speriamo che lo cerchino in fretta e magari con un po' di passione, quella che forse è mancata in chi dirige la Ferrari oggi. Ecco, se la passione che ha fatto vedere Vettel per la Ferrari l'avesse fatta vedere anche qualcuno tra gli azionisti e tra chi comanda, forse oggi avremo dei risultati migliori in pista. Binotto avrà un altro gettone, sì. Sì, Binotto avrà un altro gettone e ha la fiducia, aveva una fiducia illimitata da parte dell'amministratore delegato che se n'è andata, ma ce l'ha anche da parte del presidente. Poi non credo che sia il caso di ribaltare anche la gestione sportiva in questo momento, visto che devono già rimettere ordine nella gestione industriale dopo le dimissioni di Camilleri. Sì, e poi sarebbe tardi, perché poi esatto, sarebbe tardi. La stagione comunque prossima, già noi lo sappiamo, compromesso in partenza per tutte le questioni regolamentari, è già stata ampiamente programmata. Se dovevi pensare di strappare, lo facevi qualche mese fa. La speranza è che dopo che è stato congedato ancora Simone Resta, che arrivi qualcuno di importante, che la squadra venga rinforzata dal punto di vista dei tecnici, perché c'è bisogno, e i tecnici che hanno prodotto la SF1000 di quest'anno e soprattutto il motore di quest'anno credo che abbiano bisogno di un aiuto per riuscire a risalire la china rispetto alla Mercedes, ma non soltanto alla Mercedes, perché abbiamo visto che il motore Renault è migliorato, per fortuna da la McLaren è arrivata terza nel mondiale, certo, con una scuderia cliente, insomma, ha battuto anche la Renault ufficiale, quindi un segno di riscossa c'è sicuramente stato, e l'anno prossimo avrà motori Mercedes, quindi la concorrenza si sta migliorando e la Ferrari non può commettere gli errori che ha commesso in questa stagione. Ma secondo me il problema è vedere una direzione, no? Vale anche c'è un discorso che può essere parallelo a quello del tuo Milan, direttore. Fino a quando non vedevi una direzione, navigavi a vista tra proprietà cinesi improbabili e squadre costruite male. Sì. Adesso, al di là del fatto che hai cominciato a vedere una direzione, non a caso arrivano i risultati. Giustamente, perché è stata data fiducia a un allenatore come Pioli che stava lavorando bene, è stato creato un mix perfetto tra giovani e l'esperienza di Ibrahimovic, ma fino a quando si pensava di poter andare avanti soltanto con i giovani senza dare loro un appoggio dell'esperienza, il Milan faceva una partita buona e tre partite brutte, se non ancora peggio. Quindi c'è bisogno sicuramente di trovare la direzione giusta e poi di avere la costanza per inseguirla. Sono convinti che Binotto abbia dato alla Ferrari questa direzione giusta, ci manca la controprova dei risultati e ci aspettiamo già l'anno prossimo di vedere una Ferrari spesso sul podio, perché vorrebbe dire che la strada, almeno la direzione, è quella giusta. Sì, non sarebbe preoccupante. Per chiudere, il 2021 sarà l'anno in cui Verstappen sarà finalmente l'avversario della Mercedes, o oggi è stata una sorta di ultimo giorno di scuola liberi tutti? Oggi è stata una sorta di ultimo giorno di scuola liberi tutti, perché la Mercedes non era la Mercedes, una Mercedes che arriva a 15 secondi dalla Red Bull non era autentica. Hamilton non era Hamilton, aveva il Covid, ancora forse i postumi del Covid, e quindi è stato in tutto il weekend molto sottotono, e soprattutto non sappiamo che fine farà la Red Bull con i motori Honda. La Honda farà la sua ultima stagione l'anno prossimo, magari si inventerà un nuovo motorone per il passo d'addio, però l'incertezza è totale. Sarebbe bello perché Max è un pilota che ha vinto già 10 gare così giovane. Sì. Ha vinto un numero di gare impressionante, sarebbe bello vederlo lottare. Anche perché il duello Hamilton-Bottas è deprimente. Abbiamo visto, diciamo, che la è deprimente, e devo dire che l'ultima gara, la Formula 1, che ha avuto una stagione tutto sommato divertente, nonostante prima del via sapessimo già chi l'avrebbe vinta, ha avuto un epilogo con una gara veramente noiosa. Oggi è stata la peggior gara dal punto di vista del divertimento dell'anno, però l'ha vinta il pilota forse più divertente, insomma. Sì, in questo 2020 ci siamo divertiti anche perché abbiamo visto dei circuiti inediti. Circuiti inediti, diciamo, circuiti verità, nuovi. Che dal 2021 non vedremo più. Non li vedremo più, e questa non è una buona notizia. Un po' di battaglia. Ci siamo anche innamorati di Russell, che speriamo possa avere delle chance prima di quanto si prevede, e soprattutto speriamo di vedere dei campioni un po' più combattuti dalla vittoria finale, cosa che quest'anno veramente non c'è stata, anche se devo dirti che ogni gara ha avuto un motivo, a parte l'ultima, ogni gara ha avuto dei motivi di interesse, quindi è andata molto al di là delle previsioni. E poi devo dirti che già chiudere un mondiale con 17 gare in questo periodo è stato comunque un'impresa importante per Liberty Media. Sì, questo non dobbiamo dimenticarlo, vale per la Formula 1, vale per tutti gli sport che sono arrivati in fondo, Final 8, 17 gare, doppi appuntamenti, le moto, le auto, l'NBA che si è chiusa nella bolla. Noi dobbiamo dedicare semplice, un lungo applauso a chi comunque è arrivato in fondo. Hai ragione. Assolutamente, la stessa Champions League va detto in fin dei conti, che continua ad andare avanti, l'Europa League che continua ad andare avanti, perché sport che devono girare il mondo, perlomeno l'Europa, è comunque più difficile che chiudersi in una bolla Orlando e disputare il campionato come ha fatto l'NBA, con costi enormi e comunque con risultati importanti. Girare l'Europa per i circuiti o andando addirittura negli Emirati, come è stata la Formula 1, il moto mondiale, comunque era più complicato, e alla fine il risultato positivo c'è stato. Grazie direttore. Grazie a voi, buona ciao, serata. Ciao, ragazzi. Grazie ad Umberto Zappelloni. Ultimi minuti, ne mancano tre alla fine del primo tempo, di Genoa-Juventus, 0-0 il parziale, il traffico Varanatomi, e poi vi diamo anche il finale del primo tempo di Genoa-Juventus. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Eccoci al tradizionale appuntamento con VAR Anatomy. Luca Marelli, ciao. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Ciao. Allora, sistemiamo il collegamento audio perché sento un po' di rimbombo. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo, Marassi, tra Genoa e Juventus, parziale 0-0, e come promesso partiamo proprio da quello che abbiamo visto invece nei primi secondi di questo primo tempo di Genoa-Juventus, e cioè il gol annullato a Rabiot per un tocco di mano, di braccio, insomma è entrato in porta con tutto, però l'ultimo tocco, credo, insomma, Luca confermami, sia stato quello con il braccio, e quindi da regolamento il gol è stato annullato. Sì, no, correttissimo l'annullamento, meno la munizione, perché non è stato un movimento volontario per tentare di ingannare l'arbitro, è stato un movimento per evitare lo scontro, per attutire lo scontro col portiere. Tant'è vero che Rabiot non ha neanche risultato, perché sapeva perfettamente che la rete sarebbe stata annullata, e perciò il cartellino giallo è fuori luogo. La munizione è fuori luogo. Sì. Cartellino giallo eccessivo. Ci sarà un minuto di recupero, Carlo. Juventus mi sembra che si sia un po' incartata poi col proseguo dei minuti. Vero, hai ragione. Sì, ma ti dicevo prima, no? È partita molto bene, molto, molto lineare, molto regolare, però onestamente, innanzitutto Chiesa sottotono, perché quando non ha tanto campo davanti riesce ad incidere poco, e poi onestamente con Morata la Juventus ha una profondità diversa. Giovanni, vediamo se entrerà nel secondo tempo. Allora, torniamo a VAR Anatomy. Bologna-Roma oggi, Calvarese arbitro, Chiffi al VAR, partita in cui chiaramente gli episodi arbitrali hanno il peso di una piuma o anche meno. Ci sono però due cose di cui mi piacerebbe parlare con Luca Marelli. Il primo è al quinto del secondo tempo un intervento scomposto di un difensore della Roma, credo Spinazzola, su Palacio dentro l'area di rigore. Rigore mi pare abbastanza netto. Adesso però chiedo a te, non visto da Calvarese e Chiffi non chiama la review. Nel finale invece viene espulso Dominguez per un intervento scomposto su Villar e viene richiamato all'on-field review. L'arbitro, viene tolto il cartellino rosso e passato il cartellino giallo, pur essendoci stata una valutazione da campo. Ecco, io ho trovato un po' incoerente, diciamo, il doppio utilizzo diverso del VAR. Hai centrato il punto, è proprio l'incoerenza che non va. Nel senso che doveva rimanere silente in entrambi i casi. Sono d'accordo con te che l'intervento di Spinazzola su Palacio era da calcio di rigore, ma è da moviola, nel senso che l'arbitro ha visto l'azione, l'ha controllata, e questo deve rimanere un errore del campo, non da VAR, perché non è chiaro di evidente errore, ma è una valutazione al limite che possiamo definire errata. Per quanto riguarda l'espulsione, poi tramutato il cartellino giallo, lo stesso concetto vale, perché non c'è un chiaro evidente errore, è una valutazione dell'arbitro, può essere severa, possiamo definirla severa quanto vogliamo, ma è comunque una valutazione di campo. Poi le discussioni, se fosse rosso o giallo, devono rimanere nell'ambito della moviola. Non ho capito l'intervento di Chiffi sull'espulsione di Dominguez. Era semplicemente un intervento un po' meno pericoloso, un po' meno robusto di quello che era sembrato in campo, però siamo sempre al solito ragionamento sull'utilizzo del VAR. Intanto è finito il primo tempo 0-0 tra Genoa e Juventus. Oggi ho letto delle moviole, Luca, abbastanza negative su Lazio-Verona e sul primo gol del Verona, l'autorete di Lazzari, con un'azione che nasce da un contrasto tra Faraone e Milinkovic-Savic, entrambi alzano la gamba. Insomma, per molti analisti della moviola si trattava di fallo con anche possibilità del VAR di intervenire. Il VAR è escluso perché è un episodio che Soli ha spiegato molto bene nell'intervento a Sky, ha detto chiaramente che questi sono episodi che devono rimanere all'interno del campo, del terreno di gioco, cioè non sono episodi da VAR. L'arbitro li vede, li valuta, e se ritiene che ci sia un'infrazione deve fischiare lui, se invece lascia correre deve essere lasciato quello che è successo. Tant'è vero che l'esempio è stato fatto proprio su Lazio-Bologna e poi su Bologna-Cagliari, due episodi identici che ci ricordiamo. Nel primo caso Mattolini intervenne dal VAR e Rizzoli disse chiaramente che era stato un errore l'intervento di Mazzolini. Per quanto riguarda l'episodio di ieri sera, francamente io non penso un fallo, io vedo che i due giocatori che alzano la gamba, la alzano molto, ma fischiare fallo a favore dell'uno dell'altro avrebbe penalizzato troppo l'altro giocatore. A mio parere è stato giusto. Quindi ha fatto bene a far correre. Episodio simile in Torino-Udinese, il gol del vantaggio dell'Udinese, 24esimo del primo tempo, simile nel senso che l'azione nasce da un contatto, in questo caso tra Wallace e Meite, con proteste del Torino. Stesso discorso, si può discutere se però in quello di Lazio-Verona secondo me non c'è proprio fallo, su questo si può discutere, cioè se Massa avesse fischiato probabilmente non avrebbe sbagliato, senza problema non avrebbe sbagliato, però rimane comunque un episodio di campo ed è proprio questo che dobbiamo sottolineare, perché di questi contrasti da cui nasce una rete non vedremo più interventi del VAR, perché Soli ha detto chiaramente che l'intervento di Mazzolini in Lazio Bologna è stato un errore, non li vedremo più. Rimarranno episodi che possiamo discutere a livello moviolistico, ma che non sono argomenti da VAR. Grazie Luca. A voi, buon lavoro. Ciao, Luca. Ciao. Grazie Luca. Ciao. Marelli, appuntamento Ciao. Con VAR Anatomy per domenica prossima, quando continueremo ad analizzare gli episodi della nostra Serie A. Noi ci dobbiamo fermare qui, Carlo. Bene, ci fermiamo, ma riprenderai tu domani e riprenderemo la domenica prossima con tutti i convocati weekend. Ti dico anche che sto guardando, oltre alla Juventus, anche l'Armani contro Brindisi, sta giocando in casa ed è vicina alla prima sconfitta stagionale in campionato, 83-81 a 1,25 dalla fine. E quindi potrebbe essere la domenica che cade la dominatrice. No, non piacerebbe e non piacerà. Vedremo come va a finire. Grazie Carlo. Ciao. Ciao Giovanni. Allora, ciao, grazie a Carlo Genta. L'appuntamento è domani con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Tutti i convocati weekend torna invece domenica prossima alle 17. Io ringrazio Roberta Frisani, Andrea Roccabella in regia, Marco Santoro ed Edoardo Lavezzari in redazione. Ringrazio Edoardo per aver collaborato, condiviso con me, con Carlo, con tutti voi queste lunghe domeniche di calcio. Da settimana prossima ci sarà qualcun altro. È la vita che va avanti, Edo. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti!